casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io volevo costruire con te, con te, che mi aiuti ad accettare quel che volevo scordare. E mi sai dimostrare ogni giorno che passa che non c'è niente da temere, ma così tanto da tenere. Se non è con te e se non era un posto raggiungibile, allora io mi fermo e smetto di cercare. Se non sei tu la casa, io non so più abitare. E se non c'è, non c'è quel posto che credevo di conoscere, allora io mi fermo e smetto di cercare. C'è troppo spazio adesso per me che voglio stare con te. Casa intima, casa piccola, casa stazione di gente che viene e che va, casa all'angolo di via della speranza, che durasse per sempre quella vicinanza. Con te, con te, con te, che mi aiuti ad accettare quel che volevo scordare. E mi sai dimostrare ogni giorno che passa che non c'è niente da temere, ma così tanto da tenere. Se non è con te e se non era un posto raggiungibile, allora io mi fermo e smetto di cercare. Se non sei tu la casa, io non so più abitare. E se non c'è, non c'è quel posto che credevo di conoscere, allora io mi fermo e smetto di cercare. C'è troppo spazio adesso per me che voglio stare. Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.